occhi aperti quella strada per i desideri di un futuro che non ho. Ma un giorno arrivi tu che mi fai volare su, tu che sei la verità, purezza e fedeltà, e di quel che ne sarà, di noi sole sarà, e nel tempo che verrà. Sorridere, crescere e con